L'ora del wrestling è stato creato da un gruppo di appassionati di wrestling che volevano condividere la loro passione con il mondo. Il podcast è nato con l'obiettivo di fornire agli ascoltatori un'analisi approfondita dei match, dei lottatori e delle storie che rendono il wrestling così affascinante. Siamo una comunità di appassionati che chiacchierano ogni settimana e creiamo contenuti di qualità che vanno oltre il semplice intrattenimento. Ciao a tutti, benvenuti da Pino Fasciano e l'ora del wrestling. Siamo qui per una intervista, e che intervista? Un talento che si sta formando, un talento a cui auguriamo una bellissima carriera. La gemma del wrestling, Zaffiro. Buon pomeriggio Zaffiro, grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao, buon pomeriggio, grazie a te per questa occasione che mi stai dando. Ringrazio tutti gli utenti che poi verranno a recuperare l'intervista. Questa intervista sarà ancora disponibile su Twitch, poi sulle nostre piattaforme digitali, su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e chi più ne ha più ne metta. Poi sarà disponibile anche su gsradio.it, daddyradio.net e radiowifiofficial.it. Velocemente Zaffiro, gsradio.it in Sicilia, daddyradio.net in Emilia Romagna e radiowifiofficial.it in Sicilia. Come vedi, comunque sarà presente la tua intervista un po' in tutta Italia, vabbè, centro e sud, però meglio che niente. Poi per il resto si può recuperare su Spotify e poi podcast, Amazon Music. Siamo presenti da tutte le parti, anche per farti sorridere, anche sulla piattaforma inglese Pandora, che non è ascoltabile in Italia, però con il VPN potete anche ascoltare a Pandora, siamo presenti pure lì. Vabbè, per darti anche, diciamo, per darti l'importanza che meriti. Allora, Zaffiro, non perdiamo tempo. Ti ringrazio ancora di aver accettato il nostro invito. Allora, come hai iniziato nel mondo del wrestling e cosa ti ha ispirato a diventare un lottatore? Allora, il wrestling per me è stato un po' come un fulmine a ciel sereno. Diciamo che si è trovato nel posto giusto al momento giusto. E ti spiego. Io faccio sport da combattimento da quando ero piccolissimo. Quindi ho iniziato col judo. Poi dopo il judo ho dovuto interrompere per problemi di salute. E quando poi, che ormai questi problemi erano passati ed ero arrivato più o meno al periodo dell'adolescenza, dal nulla, era 2012 più o meno, avevo visto su D-Max, per chi se lo ricorda, era uscito il documentario quello su Alessio Sakara, che parlava dell'MMA, di questo sport in evoluzione che al tempo non si conosceva. Io ho visto l'MMA, ho detto basta, voglio fare quello. Ho iniziato a fare MMA per molto tempo, fino al 2019, dove per problemi di lavoro io mi sono dovuto trasferire a Novara, e poi era il periodo del Covid, quindi tutte le palestre erano chiuse, non ho avuto la possibilità di allenarmi. Quando nel 2020 sono tornato a Torino, la mia vecchia palestra aveva chiuso e mi sono iscritto in una nuova palestra. E iscrivendomi in questa nuova palestra, diciamo che ho fatto un po' lo sborone, no? Perché comunque venivo da tanti anni di allenamento, dicevo, non sono un pivello. E in realtà però in questa nuova palestra dove mi sono iscritto il livello era altissimo e quindi non mi sono, tra virgolette, sentito all'altezza. E quindi ho vissuto un periodo in cui con lo sport ero un po' in difficoltà, perché sì, andavo in palestra, mi allenavo, però non la vivevo molto bene. E dal nulla, scorrendo sulla bacheca di Facebook, mi è uscito un video di una festa del fumetto, adesso non ricordo se fosse il Torino Comics o qualche altro comics, e tra le immagini mi sono uscite persone che facevano wrestling. E lì mi si è accesa, diciamo, la lampadina, ho detto ma vediamo se esiste una scuola di wrestling a Torino. Così sono arrivato alla Wrestling Torino. Ho fatto la prova. Per i primi periodi ho provato a fare entrambe le cose. Poi chiaramente era un ritmo insostenibile perché lavorando e avendo due palestre non riuscivo a stare adeguatamente bene a entrambe, dietro a entrambe. E così ho deciso, vabbè, dato che nel fare MMA ultimamente mi sto trovando male, proviamo a cambiare strada completamente. Completamente, neanche tanto. E quindi ho provato a dare una possibilità al wrestling, e come ti dicevo è stato, si è trovato nel momento giusto, al posto giusto, perché poi questa cosa mi è piaciuta, e mi è piaciuto lo sport, mi è piaciuto il rapporto che si è creato con i ragazzi della Wrestling Torino, con gli insegnanti, e quindi ho continuato questa strada, che spero sia ancora lunga. Ok. E noi te l'auguriamo, però... Furbacchione ha introdotto la prossima domanda, e poi ce ne sarà anche un'altra che ci divertiremo, anzi, ma meglio di ti divertirai tu, io lo so, ma tu ti divertirai. Comunque andiamo avanti, a parte scherzi, saluto il buon Graziano Piso. Graziano, fai tutte le domande che vuoi, Zaffiro è disponibile a rispondere. Allora, so che ti alleni stabilmente nella Wrestling Torino, e qui ti voglio. Uh-huh. Come descriveresti la tua esperienza di allenamento, e allenamento lì ovviamente, e in che modo ti ha aiutato a crescere come wrestler? Prego. Allora sì, come ho brevemente anticipato, nella Wrestling Torino mi sono sentito subito benissimo, ho creato subito un bel legame innanzitutto con Violenzo e Beppe Verga, che sono i miei istruttori alla fine, ma anche con i ragazzi, diciamo, della prima, che poi non sono neanche la prima guardia della Wrestling Torino, sono la seconda guardia, perché fare la prima mi viene in mente più Renzo Rose, Fabio Ferrari, quindi due nomini così. La seconda guardia intendo quindi già Emilio Torres, che è già stato da te, Lucas McLeod e Gigi dei Italian Guy. Sono i ragazzi con cui ho iniziato, anche se sono arrivato un po' dopo di loro, con cui si è instaurato subito un bellissimo rapporto. Questo è uno dei motivi che mi ha spinto inizialmente a continuare per questa strada, perché come dicevo prima, nell'MMA mi trovavo un attimo così, anche non era un ambiente di tensione, però era un ambiente molto competitivo, che alla lunga mi creava stress, molto stress. Questa componente invece nella versione Torino non l'ho trovata, e mi sono trovato subito benissimo. Nulla, questo. Ok. Ma non ti preoccupare, che poi ci sarà un'altra domanda successivamente che ti metterà per ancora più sono andato avanti. In difficoltà. Allora, hai partecipato a un seminario di allenamento, perché ne abbiamo parlato privatamente, mi hai precisato, e ti ringrazio, Zaffiro. Hai partecipato a un seminario di allenamento in Irlanda con la OTT, mica pizza e fighi, l'OTT. Puoi raccontarci di più su questa esperienza e su cosa hai imparato? Allora, l'esperienza in Irlanda è stata bellissima, mi sembra semplice da dire. Ero stato preparato sempre da Beppe Verga, che mi aveva detto, guarda, tu non ti aspettare, cioè aspettati un livello altissimo in Irlanda. E io in cuor mio ho pensato, sì, vabbè, per quanto alto può essere. Invece sono arrivato lì e c'era un livello veramente altissimo. Si è notato fin da subito anche negli allenamenti, cioè c'erano gli istruttori che spiegavano questi spot, che erano anche molto lunghi, che io, vabbè, a parte la barriera linguistica, quindi prima devo capire cosa stavano dicendo e poi capire quello che devo fare, però c'erano alcuni ragazzi che si ricordavano tutto fin dalla prima prova, e è una cosa che apprezzo moltissimo, anche perché credo che la memoria sul ring sia uno dei miei più grandi problemi. Vedere questi ragazzi così spigliati mi ha dato sicuramente modo di vedere un'altra realtà, e in certi aspetti anche più evoluta del panorama italiano, giustificatamente, perché secondo me comunque in Irlanda, comunque nel Regno Unito, la cultura del wrestling è molto più forte rispetto a qui in Italia, e si vede negli show. Allo show dove abbiamo partecipato c'era molta gente, il pubblico era molto più, collaborava molto di più, e si vedeva anche che era un pubblico che seguiva attivamente il wrestling. Qui purtroppo in Italia, non essendoci questa cultura del wrestling è una cosa un po' più difficile da vedere. Sono rimasto stupito anche e soprattutto dall'organizzazione, cioè dalle piccole cose, come anche lo show fosse organizzato in una maniera ineccepibile, cioè sembrava veramente uno show, non voglio dire della WWE, però comunque era, si vedeva che c'era molto lavoro dietro e che ci tenevano molto, non che qui in Italia non sia così, però secondo me c'è ancora un po' di strada da fare, sebbene ci arriveremo e da quello che sto vedendo, da quando ho iniziato io ad allenarmi fino ad oggi, si vede che le cose si stanno evolvendo. Ok. Perfetto, Zaffi. Qual è il tuo stile di lotta e quali sono le tue mosse preferite? Allora, io provenendo dall'MMA, diciamo che sono avvantaggiato su quello, tutto quello che è il lavoro a terra e prese e robe del genere. In realtà non ne faccio un uso smodato perché mi rendo conto che troppo lavoro a terra, troppe prese potrebbero risultare anche noiose dal punto di vista dello spettatore, soprattutto dal punto di vista di uno spettatore non affine con il wrestling, che quindi magari ci sta vedendo per la prima volta. E, tutto sommato, cerco sempre di mettere mosse di questo mio, diciamo, passato. Per quanto riguarda le mosse più nel wrestling, ho preso ispirazione da quello che secondo me è un grande wrestler a livello atletico americano, sto parlando di Chad Gable, che diciamo che è un po' un amore odio Chad Gable. Non apprezzo tantissimo il suo personaggio, cioè non mi piace tantissimo il suo personaggio, ma mi rendo conto che dietro c'è una fisicità e un atletismo spaventoso in quello che fa. Mi piace moltissimo come si muove e proprio per questo l'ho derubato della sua rolling German suplex. Cioè, rolling e poi German suplex. Chiaramente ancora da perfezionare, però mi è piaciuta subito e gliel'ho un po' sgraffignata. Un'altra mossa che uso, ma ancora chiaramente da perfezionare, è il coup de grâce, che mi piace molto, che sembra una mossa molto semplice, ma è proprio nella sua semplicità che è veramente difficile. Stai parlando di mosse semplici, sono difficili. Sono difficili. Prego, a te la parola. Scusami, però volevo enfatizzare il fatto che tu cerchi il perfezionismo, cerchi di imitare il perfezionismo che già di per sé è difficile, quelle mosse. Prego. No, intendevo facile, tipo il coup de grâce, intendevo facile perché nell'esecuzione, cioè tu salti dalla terza corda e cadi a piedi uniti sulla persona, quindi può sembrare facile. In realtà facile non è, perché quella persona devi anche cercare di non ammazzarla. E quindi bisogna prendere i giusti tempi, le giuste cadute, devi anche sapere con chi la stai facendo, chiaramente. È una cosa che secondo me passa forse un po' troppo inosservato nel wrestling, che alla fine è un gioco di squadra, cioè io posso fare la mossa più bella del mondo ma non posso spaccarti la schiena, quindi deve esserci collaborazione tra i due, devo sapere contro chi sono, quindi per questo dico facile dal punto di vista teorico, ma in realtà poi praticamente non è così facile, certo. Ok, Zaffiro, cambio leggermente domande di quello originale. Parliamo dei tuoi match. Hai qualche match importante di cui puoi raccontare qualche aneddoto o situazione curiosa o importante? Allora sì, non ti parlerò del mio match di debutto, ma ti parlerò di un match che ho fatto prima ancora del mio debutto. Tu mi dirai ma come. Ti parlo di questo match che per me ha significato molto, che ho fatto a un camp a Como di Luca Rusconi, Beltasar. Sono andato sempre con i ragazzi del Wrestling Torino e alla fine di questo camp abbiamo fatto dei mini match di prova, che sono la prassi per gli wrestler. Peccato che era il mio vero primo mini match, semplicemente. Lo ricordo con affetto perché, sebbene io sia una persona che non abbia molti problemi a parlare in pubblico, comunque a farsi vedere, comunque mi sentivo parecchio agitato prima di quel match, nonostante comunque non ci fosse pubblico, cioè fossimo semplicemente noi ragazzi che ci stavamo allenando. E parlo con affetto di questo match perché mi ha aiutato tantissimo a rompere il ghiaccio. Io ero molto agitato prima di questo match, mini match, che poi era un match di allenamento, ma mi ha aiutato molto perché poi dal momento in cui ho fatto il mio debutto ero sì agitato, però diciamo che il ghiaccio l'avevo già rotto. Quindi è un match che mi piace ricordare e a cui do la sua importanza. Un altro match per me molto significativo è stato un match che ho fatto contro i Verga, Beppe e Ciccio Verga, in tag team con Gigi, di Italian Guy. Mi è piaciuto quel match, eravamo a una fiera a Cirié. Mi è piaciuto quel match perché è stato il primo match in cui io sono entrato e mi sono veramente divertito. Cioè sono entrato, ho pensato soltanto a fare quello che dovevo fare, senza pensare a però se sbaglio questo, sbaglio quello. E niente, mi sono divertito e sono consapevole del fatto che secondo me un vero wrestler deve fare questo, innanzitutto. Quando deve salire, quando stare sul ring deve principalmente divertirsi lui, perché se non ti diverti te, secondo me non puoi far divertire il pubblico. Ok? Accendo solo un attimo la luce perché sta diventando notte. Ok. Ti cambia leggermente la domanda originale, ma non ti, non ti preoccupare. C'è stato un momento della tua attuale carriera di wrestler in cui hai detto ok, ho preso la strada giusta lasciando l'MMA e puntando sul wrestling? Diciamo lo vivo, non dico sempre, molto spesso, però è una cosa che provo spesso. Sono molto felice della mia carriera fino ad ora, sebbene sia agli inizi. Non c'è stato un momento nello specifico, però diciamo che ci sono state tante piccole cose che mi stanno facendo veramente apprezzare la scelta che ho fatto, e non è una cosa che succede spesso nella vita, quindi sono molto felice per questo. Da tutto, da semplicemente l'essere acclamato, adesso esagero, acclamato, però l'avere un pubblico quando combatti che fa il tuo nome, che ti incita, o che nel caso stai facendo il ti manda a fanculo, se si può dire, scusa il francese. Guarda, tranne i proselitismi religiosi, se eri una donna mezza nuda, parlavamo di religione, di politica, una donna mezza nuda, non si poteva fare, è bestemmiare. Quindi no, mi sono lasciato solo un piccolo francese, ma era per rendere meglio l'idea, perché quello francesismo, prego. Effettivamente quello che succede durante gli show, quindi è giusto dirlo, no? Se fai l'ill ti devi aspettare, anzi non solo devi aspettartelo, devi sperare in quello. Quindi diciamo sono queste piccole cose, anche soltanto tutto il calore di quelli che è il panorama del wrestling, anche soltanto questa intervista, per dire, cioè se avessi continuato nell'MMA nessuno sarebbe preoccupato di intervistarmi. Purtroppo è un mondo un pochino, tra virgolette, più morto, soprattutto qui in Italia, sempre, perché poi se si parla di America è un'altra storia. Quindi sì, diciamo che sono tante piccole cose che mi stanno facendo capire che ho scelto la strada giusta. Al contrario, Zaffiro, e cambio la domanda originale. Al contrario, c'è stato un momento in cui hai rischiato veramente a dire quasi quasi, sei capito? Attacco i boots al chiodo. No. No, in realtà per fortuna no, perché come ti dicevo, sto avendo tante piccole soddisfazioni che bene o male mi stanno facendo andare avanti. Il periodo più difficile, come dicevo già prima, è stato all'inizio, quando mi sono trovato appunto al momento di scegliere tra una strada o l'altra. Quindi è stato quello il periodo un po' critico, perché magari avessi scelto l'MMA a quest'ora, anzi, non probabilmente, sicuramente non sarei qui a parlare di questo. Quello è stato forse il momento un po' più critico, per il momento non ho avuto ricadute, quindi speriamo che vada avanti così. Oppure no, perché a volte le ricadute, rialzarsi dopo le ricadute aiuta, quindi chi lo sa. Poi Zaffiro te la volevi, vabbè, anche colpa mia che non l'ho detta precedentemente, ma ti volevi sgamare la domanda più importante di tutta l'intervista. Se sei allenato, no, no, sei allenato da Violenzo, che saluto, che noi già abbiamo intervistato, anzi vi invito a recuperare l'intervista a Violenzo e vi invito a recuperare l'intervista a Emilio Torres. Comunque torniamo al nostro ospite, a Zaffiro. Sei anche allenato da Violenzo. Com'è il suo stile, di allenamento, e che cosa ti ha trasmesso sia fuori che dentro il ring? Prego Zaffiro. Allora, come ti dicevo, il pregio di Violenzo, secondo me, è quello di essere serio quando c'è bisogno di essere seri, e meno serio quando non ce n'è bisogno. E questo crea e ha creato, come ho già detto più volte, secondo me un ottimo ambiente all'interno della wrestling Torino. Insegnamenti te ne potrei dire mille, ma ti dico quello che secondo me è stato più importante, perché mi ha fatto capire verso che direzione andare. E te lo spiego con un aneddoto. Eravamo a Riva Ligure a fare uno spettacolo, e per circostanze non dipese da noi ci siamo ritrovati ad essere senza arbitro, e alla fine l'arbitro ho dovuto farlo io. Durante questa serata mi è toccato anche arbitrare l'incontro tra appunto Violenzo e Tom La Ruffa, di nuovo altri nomi piccolini. La cosa più bella che ho notato vivendo quell'evento, perché alla fine ero arbitro, quindi l'ho vissuto in prima linea, era, che poi una cosa che poi ho detto anche a Violenza, quindi non è un insulto, anzi è un pregio, e adesso ti farò capire. Loro hanno fatto uno dei match, secondo me, più belli della serata, senza fare nulla. Questo cosa vuol dire? Che molto spesso tu vedi quei match in cui magari ci sono mille mosse, ci sono i 360, Tower of Doom, e poi alla fine, da spettatore, cosa ti è rimasto davvero di quel match? Magari molto poco. E invece loro sono riusciti a fare un match ben strutturato, senza fare mossoni, magari con qualche body slam, qualche armdrag, senza robe eccezionali, eppure hanno fatto un bel match. E questo è quello che cerca di farci passare Enzo, Violenzo, cioè che molto spesso fare le cose in grande è peggiorativo. Fare poche cose fatte bene, strutturare bene un match, dargli raccontare bene la storia, è molto più utile che non fare dei mossoni che poi alla fine possono anche confondere lo spettatore. Poi certo, i mossoni ci stanno, non sto dicendo questo. Però è questo secondo me l'insegnamento migliore che mi ha dato, e appunto il mio stile di wrestling cerco di tenderlo verso la semplicità e concentrarmi appunto sul rendere bene la storia e su altre cose. Ok, un'altra domanda e poi prendiamo dalla chat, che per fortuna, grazie a Stefano Poggiolo e Graziano Piso, ci sono comunque domande anche riferite al tuo passato in MMA, quindi ti divertirai. Ti chiedo questo: qual è stato il più importante consiglio che hai avuto da un collega nel backstage? Da un collega wrestler, ovviamente. Sì, sì. Ne ho ricevuti parecchi. Tenderei a ripetermi se dicessi Violenzo, ma... effettivamente il miglior consiglio che mi è stato dato Violenzo forever, se è un grande allenatore scusami, perché non bisogna vantarlo. Comunque vabbè, no, io sono di parte perché l'ho intervistato, pazienza se sono di parte. Prego Giaffiro, scusami, colpa mia, niente, assolutamente. Il più grande consiglio che ho ricevuto è se pensi di andare che stai andando piano, vai più piano. Che sembra un'assurdità, ma quando tu entri sul ring il tempo ti passa veramente così. Quindi magari c'è il promoter che ti dice devi fare 10 minuti di match, tu entri, fai quello che devi fare, esci, dici sono stato cortissimo, ho fatto 3-4 minuti, poi parli, in realtà ne hai fatti 10, magari sei andato anche lungo e non te ne accorgi. E quindi per assurdo è vero, perché quando sei sul ring veramente vivi a due per. Quindi se ti sembra che stai andando piano, stai andando comunque troppo veloce, quindi rallenta un pochino. Questo poi serve anche e soprattutto per tenerti la mente un po' più sveglia, perché chiaramente non c'è soltanto il punto di vista atletico una volta che sei sul ring di wrestling, devi anche ricordarti quello che devi fare, che sembra scontato ma non lo è. E quindi prenderti quei secondi, rallentare un attimo, ossigenare un po' il cervello, appunto, ti aiutano molto. E quindi anche questo è un consiglio che mi ha aiutato moltissimo. Grazie, Tiro, però lupus in fabula. Stefano Poggioli ti chiede: hai problemi di memoria sul ring? Come cerchi di risolvere il problema? Assolutamente sì, ce li ho. Allora, diciamo che il primo metodo per combattere i problemi di memoria è cercare di annullare l'ansia, perché l'ansia peggiora le cose. E poi faccio un po' come quando studiavo a scuola. Cioè ripasso fino alla fine, fino al primo quarto d'ora, 20 minuti prima del match, e poi cerco di liberare la mente, perché continuare a rimuginare le stesse cose quando stai per entrare nel backstage, quando sei proprio per entrare, sei nel backstage che stai per entrare, è solo peggiorativo, perché rischi di confonderti. Quindi 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti prima, dal match prima del tuo, cerchi di sgomberare un po' la mente, e poi una volta che sei sul ring, cerchi di cavartela. Poi chiaramente i problemi di memoria ci sono, ce li hanno tutti, ma è proprio qui che sta anche la collaborazione con l'altro wrestler contro cui ti trovi e soprattutto l'esperienza, che ti aiutano a riempire quei buchi nel caso ce ne fossero, e comunque la comunicazione tra wrestler. Può sembrare banale, però anche comunicare col tuo avversario per farsi vedere chiaramente. Ti può aiutare in momenti di difficoltà, ed è importante anche capire i momenti di difficoltà dell'altra persona, perché, come ho accennato già prima, alla fine non si vede questo da questo punto di vista, ma il wrestling è un gioco di squadra, è uno sport di squadra. Zaffiro, ancora Stefano Forgione, la difficoltà più grande che hai trovato approcciandoti alla disciplina? Allora, difficoltà ce ne sono state tante. Sicuramente nella mia forma mentis, che era all'inizio quella di lottatore di MMA, al cambiare, è proprio un cambio di mentalità che ho dovuto fare. Sicuramente, la memoria l'abbiamo già detto, è stato uno dei primi problemi che ho incontrato. Tralasciando quello, è appunto questo cambio di mentalità. Tu, quando entri su un ring di wrestling, devi, come dire, non devi soltanto proteggere te stesso, ma devi proteggere anche l'altro. Questa è una cosa che sul ring di MMA, per quanto non ne abbia calcati chissà quanti, non c'è, anzi è completamente il contrario. Tu devi cercare di far più male possibile all'altro, cercando di non farti male te. Il wrestling, sotto questo punto di vista, è un po' più autodistruttivo, perché le mosse del wrestling sono più autodistruttive. Cioè, io magari mi devo buttare dalla terza corda, mi devo buttare dalla terza corda, magari mi faccio male. Sì, probabile, cercherò di non farmene. Quindi è un po' affrontare questa paura, come dire, questo scoglio. Perché poi alla fine, quando si ha paura di fare un mossone, che poi non deve essere per forza un mossone, perché anche una body slam, puoi avere paura di fare una body slam, per paura di far male all'avversario. A volte proprio questa paura ti fa fare le cose peggio di come le faresti davvero. Quindi è stato un po' combattere appunto questa paura. Possiamo metterla così, spero di aver risposto correttamente. Zaffiro, come anche senza farlo apposta, anticipi le domande della chat. Allora, la differenza che hai trovato nel fare wrestling, questo è Graziano Pisu, la differenza che hai trovato nel fare wrestling è fare arti marziali miste, e poi aspetta che le faccio due in uno, quindi è la prima di Graziano, la seconda di Graziano. Ti vorrei chiedere, nel wrestling si usano mosse di MMA, ma quanto possono essere efficaci nel wrestling secondo te? Allora, se vuoi ti ripeto le differenze che hai trovato tra praticare il wrestling e praticare MMA, e poi la seconda di Graziano Piso. Ti vorrei chiedere, nel wrestling si usano mosse di MMA, ma quanto possono essere efficaci nel wrestling secondo te? Volevo essere il più chiaro possibile. Grazie Zaffiro, prego. Allora, sì, come dicevo, la differenza più grande è stato proprio l'approccio mentale. Al capire che tu devi entrare sì su un ring, ma fare una cosa che non è completamente, ma quasi completamente diversa. Un'altra cosa, ecco, che forse avrei potuto dire anche prima, però capita fagiolo anche adesso, è anche tutto quello che è l'approccio con il pubblico. Quindi tu, quando chiaramente sei in uno spettacolo di wrestling, ti devi sì concentrare su quello che stai facendo, ma devi essere anche molto, forse più attento ancora a quelli che sono, come dire, gli output che ti danno gli spettatori, gli output, e poi devi anche essere tu a parlare con loro e a incoraggiarli a fare il tifo, a insultarti, quello che deve essere. Quindi devi proprio pensare a fare due cose diverse. Io in quanto uomo non sono molto bravo a fare due cose diverse contemporaneamente, però da un bravo wrestler deve riuscire a fare anche questo. Cioè pensare a quello che sta facendo e pensare a quello che succede al di fuori del ring e a farli combaciare, diciamo così. Per quanto riguarda l'altra domanda, invece, ci sono sicuramente molte mosse che possono essere utilizzate anche nel wrestling. Molte mosse sono addirittura uguali, proprio nel camp di cui parlavamo prima in OTT abbiamo fatto una parte di sottomissioni, e molte erano esattamente le stesse che facevo MMA, con la differenza che chiaramente non vai a tirare e a far male davvero la persona. Mosse di MMA nel wrestling se ne usano, basti pensare agli armbar, basti pensare al Superman Punch, però come dicevo anche prima, secondo me bisogna sceglierle bene, perché fare un incontro di wrestling dove io sto tutto il tempo a terra, fare mosse a terra, sottomissioni, non è molto, potrebbe risultare noioso, ecco. Mosse già un po' più carine, tipo il Superman Punch, che ha già un impatto diverso, secondo me nel wrestling ci stanno molto meglio. Poi questo non vuol dire che non bisogna fare sottomissioni nel wrestling, perché si rischia di annoiare. Bisogna fare entrambe le cose, ecco. Continuiamo Zaffiro, poi riprendiamo dalla chat, perché ci sono ancora un paio di domande interessanti. Allora, poc'anzi stavi parlando adesso, vorremmo conoscere anche qualcosa della tua vita personale. Quanto è importante per te l'interazione con i tuoi fan, e cosa significa per te il loro supporto? Sì, diciamo che anche questa più o meno l'ho anticipata come risposta. È importantissimo. Nel nostro, tra virgolette, lavoro, mi piace chiamarlo così, l'interazione con il fan non sarà il 100%, ma è l'80% di quello che è il nostro lavoro. È molto importante sia da un punto di vista nostro, del nostro piccolo, perché ci rende chiaramente felici avere un seguito, vedere che le persone ci seguono, che apprezzano quello che facciamo, e sia perché noi alla fine, bene o male, vendiamo un prodotto, possiamo dire così, che è il nostro corpo, il nostro personaggio, e quindi chiaramente deve esserci qualcuno che l'apprezza. Non possiamo vendere aria fritta. E il fatto che ci sia qualcuno che ci segue è una cosa importante e fondamentale per noi. E infatti per questo durante i match, quando ci sono gli eventi, che sono chiaramente il punto più importante di una carriera del wrestler, di un wrestler, è importantissima l'interazione col pubblico, è il 90, è di nuovo l'80%. Anche qui volevo citare un altro nomignolo minuscolo, piccolissimo nel panorama del wrestling e non solo, un certo Maurizio Merluzzo, in una intervista, quando gli hanno chiesto ma perché dovremmo venire a vedere uno spettacolo di wrestling se tanto tutto è predeterminato, si sa già come va a finire. E lui ha detto, alla fine, perché andate a vedere uno spettacolo a teatro? Gli attori sanno già come va a finire lo spettacolo a teatro, ma voi andate lo stesso. Il wrestling è un teatro in 4D. E io apprezzo molto questa sua definizione, perché è vero, perché quando tu sei uno spettacolo di wrestling, un bravo wrestler deve riuscire a interagire bene col pubblico. È una parte fondamentale. Perché chiaramente 4D, appunto, perché in uno spettacolo a teatro non ti capiterà mai di prendere un attore e tirargli una cioppa da spettatore. Negli spettacoli di wrestling invece succede. E quindi, e forse è proprio questo il bello. Anzi, sicuramente questo è il bello. Ok? Grazie Zaffiro. Torniamo un momento alla chat. Allora, ti chiede Stefano Poggioni, com'è una tua settimana tipo per quanto riguarda gli allenamenti? Allora, diciamo che il mio più grande problema per quanto riguarda gli allenamenti è il fatto che io lavoro su turni. Quindi, lavorando su turni, non riesco ad essere al 100% presente a tutte le lezioni. Diciamo che la Wrestling Torino offre 2 lezioni a settimana, la sera. Ti interrompo solo un secondo, poi già che ci sei pubblicizza pure la Wrestling Torino, ci mancherebbe pure. No, ti voglio solo ringraziare un'altra volta per aver accettato l'intervista, perché me l'hai precisato, sei stato onestissimo e professionale, non ti posso dire niente. E io ti sono venuto incontro, cioè ci siamo venuti reciprocamente incontro e abbiamo trovato, come si dice, la quadra del cerchio. Prego, scusami, ma c'era da precisare, perché diamo a Zaffiro quello che è di Zaffiro e diamo i meriti per aver accettato l'intervista e ci siamo riusciti a incassare. Prego, scusami che ti ho No, assolutamente. Volevo dire che i meriti sono anche tuoi e ti ringrazio di nuovo di avermi dato la possibilità comunque di farmi conoscere, perché alla fine questo è. Stavo dicendo, per la mia settimana di allenamento io purtroppo non riesco ad essere presente al 100%, sono 2 lezioni a settimana della durata di 2 ore, poi chiaramente questo riguarda l'allenamento tecnico del wrestling. Io mi alleno a casa, la mia palestrina a casa, quindi io mi alleno un giorno sì e un giorno no, praticamente, a prescindere dagli allenamenti del wrestling. Faccio allenamenti di pesistica, che sono importanti sia perché, come dicevo prima, noi vendiamo un prodotto, e quel prodotto in un certo, da un certo punto di vista è il nostro corpo. E quindi chiaramente un corpo allenato nel wrestling non è fondamentale, ma sicuramente aiuta, sia dal punto di vista di vendere appunto il prodotto e sia dal punto di vista che se io devo affrontare delle cadute, devo fare delle mosse, il mio corpo deve reggerle, molto semplicemente. Questo è tutto quello che riguarda l'allenamento fisico, poi in realtà c'è molto altro. Anche soltanto guardare il wrestling, io lo considero come una sorta di allenamento, perché comunque hai spunti, hai idee, vedi mosse nuove. Anche seguire wrestler su Instagram, su Facebook, svariati social, mi aiuta perché io vedo nuove mosse, vedo, ah sì, quella mossa mi piace, però effettivamente come la fa lui è più carina. Quindi è sempre un allenamento anche mentale. Quindi sì, riassumendo, 2 lezioni di wrestling e pesistica, chi più ne ha più ne metta. Grazie Zaffiro. Allora, Graziano Pisu ti chiede, tu sei un face o un heel? E poi scusa se te ne dico un'altra, che già te l'avevo anticipato prima di iniziare la live. Cosa ne pensi dei match intergender e se ti interessa poi in futuro disputarne uno? Prego Zaffiro. Allora, la cosa divertente è che il mio personaggio nasce come face, perché è tutto colorato, fa un po' lo sbrone, quindi nasce come face. La realtà dei fatti è che mi sono ritrovato nella maggior parte degli incontri a fare l'heel, e la cosa mi piace molto. Mi piace anche fare il face, diciamo che un po' mi vendo alle occasioni, anche perché non ho una carriera enorme alle spalle, quindi faccio un po' quello che mi viene chiesto di fare all'occorrenza. Io non ho una vera preferenza, perché ci sono gioie e dolori per entrambi i ruoli. Così su 2 piedi, se dovessi scegliere, direi il, perché lo trovo più divertente. più divertente dal punto di vista che in quanto non devi stare alle regole e poi sbizzarrirti sia sul ring sia nella creazione del match. E nella parte del face invece molto semplicemente perché è molto bello che entri e tutti gridano il tuo nome, ti carica molto, quindi anche questa è diciamo la gioia del face. E di nuovo, dovessi scegliere su di piedi, comunque ti direi heel. E la seconda domanda sui match intergender, assolutamente sì, anche perché io credo che il wrestling abbia questo enorme valore aggiunto, cioè di mettere, ed è uno dei pochi sport che lo fa, ma è quello che secondo me lo fa meglio, quello di mettere esattamente sullo stesso livello i wrestler, i lottatori maschili con quelli femminili. È una cosa che negli altri sport non vediamo mai, sia dal punto di vista di fama. Cioè, se noi adesso, se io adesso parlassi di una Rhea Ripley, che è una donna, però non potete dire che gode di meno fama di un qualsiasi altro wrestler maschio. Quindi questa qui, secondo me, è una cosa bellissima. Cioè, è più paritario di così. E il valore aggiunto che ha il wrestling è appunto la possibilità di fare l'intergender match, che è una cosa che in nessun altro sport si può vedere. Quindi assolutamente un valore aggiunto, sono assolutamente pro e mi piacerebbe moltissimo trovarmi nella possibilità di fare un intergender match, perché no? Ok, Zaffir, siamo quasi agli sgocci e ci invito, se ci sono ancora Stefano Poggiore e Graziano Pisu, a scrivere le loro ultime domande. Guardando al futuro, quali sono i tuoi obiettivi e progetti nel mondo del wrestling, anche un match contro violenza o prendere la violenza? Ovviamente sto dicendo per farti sorridere. Prego, Zaffir. Allora, adesso ti faccio sorridere io. Hai detto del match contro violenza. In realtà il mio debutto l'ho fatto contro un lottatore mascherato di nome Lucenzo, che era molto simile a Violenzo, però adesso non posso dire altro, quindi mi piacerebbe un match contro Violenzo. Non voglio dire che c'è già stato, però diciamo che era molto simile fisicamente, quindi diciamo che ho avuto un assaggio di quello che potrebbe aspettarmi. Per quanto riguarda il mio futuro, parlando molto banalmente, mi piacerebbe sicuramente uscire fuori dall'Italia, cioè non stabilmente, però fare dei match anche al di fuori dell'Italia, farmi conoscere anche appunto al di fuori del nostro paese. La mia mission nel piccolo, in quello che posso provare a fare, è usare la mia esperienza per incoraggiare gli altri, soprattutto bambini e ragazzi, a fare quello che ho fatto io e a buttarsi nello sport, perché come dicevo prima, io ho fatto sport fin da bambino, sono felicissimo di questa cosa, mi ha insegnato tantissimo e non sarei la persona che sono adesso se non l'avessi fatto. Quindi la mia mission, per me, nel mio piccolo, è appunto spargere questo verbo, cioè incoraggiare le persone a seguire le loro passioni, nello sport principalmente, anche se non fossero quelle, vanno bene anche altre. E poi un'altra cosa che mi piacerebbe fare, io vivo a Torino, ma in realtà origini pugliesi, mia madre è pugliese, e purtroppo da quelle parti, match, almeno per quanto io ne sappia, il wrestling non è molto conosciuto, non ci sono molti eventi. Tu sicuramente lo saprai meglio di me, mi correggerai se sto sbagliando. No, aggiungo, vabbè, finisci il tuo concetto e poi aggiungo, prego, prego, scusa. No, e quindi prima ancora di uscire dall'Italia mi piacerebbe comunque portare anche il wrestling dove si vede un po' meno, e quindi mi piacerebbe, adesso io ho parlato della Puglia perché ho origini pugliesi, però in tutti i posti dove magari è più difficile trovare uno spettacolo di wrestling, non come a Torino, Milano, dove bene o male trovi spettacoli ogni fine settimana. A prescindere, vabbè, che io sono napoletano puro sangue, ma il mio cognome Fasciano è di, se vai a cercare l'albero genealogico, è di origine di Molfetta pugliese. Ma al di là di Ah, questo, ok. vabbè, anzi, si trovano ancora i Fasciano a Molfetta, ma al di là di questo. ce l'ha, se proprio al, diciamo, al confine c'è la Premium, la Premium Championship Wrestling e l'NWG in Basilicata, che Però appunto comunque Basilicata, perché... molto, molto distante dalla Puglia. Poi, se la vuoi mettere tra virgolette sul personale, chiusa virgolette, c'è la Dream Wrestling a Salerno per quanto riguarda la campagna. E poi, vabbè, poi Sì, ci no, me li sta conosco. la Real Italian Wrestling in Sicilia, se proprio vogliamo mettere proprio a questo punto tutto il sud. No, non mi sud. Poi già incomincio a salire, poi vabbè, trovo Italia Wrestling Association, Magerrum, ma sud-sud, sì, sono solo quelle, se eventualmente un giorno sei interessato. Io dal mio punto di vista, se mai ti trovi in campagna, mandami un messaggio e casomai Volentieri. almeno un caffè, Volentieri. un caffè. Una sfogliata o un caffè e un abbraccio, almeno questo, mamma mia, non è che sono il diavolo. Domani Sfoglia. mattina, domani mattina poi dici che sono il diavolo, almeno adesso, almeno a bozze dici che comunque non si sa mai. Non si sa Almeno mai. solo per la sfogliata, guarda, non posso dire di no. Vabbè, Solo per perché quella. dici tipicamente la campagna, che dici? Il caffè, la sfogliata, la pizza. E aggiungi la mozzarella possibilmente di bufala. Poi onestamente, che tu vuoi mettere la canzone, cioè esageriamo almeno dal punto di vista culinario. E che dici? Il caffè, la sfogliata, la mozzarella e la pizza. Ti viene subito in mente. Io così dico, come ti dico, però non ci azzeccare, ma tanto non devo offendere, ovviamente, offendere e nominare a nessuno. Come ti dico, vieni in campagna purché conosci un campano o nel caso un napoletano. Se no, se devi venire all'arrembaggio e venire tutto con i pregiudizi, con tutto il rispetto nei tuoi confronti e di chiunque, non ci venire proprio. No, te lo dico proprio francamente, perché se poi devono venire con i pregiudizi così all'arrembaggio, e poi devono rimanere male per tante situazioni, tanto meglio non venire. Se poi conosci un napoletano o conosci in qual caso un campano, questo casertano, Avellino, Benevento, eccetera, eccetera. No, no, guarda, siamo agli scucci, non ti preoccupare, non è che ti sto annoiando. No, non Non mi impegni, venire, tranquillo. proprio, no, ma siamo, non ti preoccupare, siamo in Sì. orario, non è che No, no, no. ho sforato. Grazie a Lupizio di Chiete, scusami ancora se siamo, però poi giustamente poi ci siamo messi a parlare delle federazioni che sono al sud e io un poco, come si dice, ho Hai fatto sbracato, bene. Hai fatto benissimo. se ci azzeccavo però. Grazie a Lupizio di Chiete, un match che ti è rimasto nel cuore e che lotteresti una seconda volta. Sì, non vorrei ripetermi, adesso non so se magari ha seguito la diretta già fin dall'inizio, parlavo del mio incontro in tag con Gigi the Italian Guy contro i Verga, di nuovo perché è stato il match che mi ha fatto capire io voglio fare questo, io voglio entrare, voglio divertirmi, voglio far divertire senza pensare, imparanoiarmi, senza ansia e quindi sì, lo farei altre mille volte perché mi è piaciuto un sacco. Proprio per la sua leggerezza, appunto. Cioè, non leggerezza dal punto di vista del match, ma leggerezza mia mentale, di come sono entrato e come mi sono approcciato a quel match. Allora, Zaffiro, è arrivato il momento di... siamo proprio agli sgoccioli. Allora, prima momento promozionale, poi un'ultimissima domanda e poi qualche altra pubblicità. Allora, prima tocca a me, poi ti do la palla a Bozza. Allora, questa intervista la potete ancora recuperare su Twitch, poi la potete recuperare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e le maggiori piattaforme digitali. Poi per la serie non potete inventare scuse che non conoscete Zaffiro, lo potete seguire su gsradio.it dove c'è la library dell'ora del pressing, lo lo potete seguire su deadradio.net e su Radio Wi-Fi of Radio Wi-Fi official.it. Adesso la parola a Zaffiro, hai 2 minuti, vabbè, pure se sfoglio non succede niente, hai 2 minuti per pubblicizzare i tuoi social e poi l'avresti in Torino gli allenamenti, quello che vuoi. Prego Zaffiro. Allora, sì, sicuramente seguitemi su Instagram, TikTok, anche se lo uso meno, Zaffiro Pro, seguite la Wrestling Torino, seguite Violenzo, il mio allenatore, ma tutti i ragazzi della Wrestling Torino, perché sono davvero tutti bravissimi. Vi invito ai nostri show, in particolare ce n'è uno domani, giusto, a Cumiana, perché si trovasse nei paraggi, anche qui ci abbiamo giusto qualche nomignolo poco importante, dai già citati Fabio Ferrari, Renzo Rose, Tom La Ruffa. King Danza, sempre per citare nomignoli, roba da nulla. Quindi appunto vi invito ai nostri show, vi invito al nostro corso che si tiene a Torino il martedì e il giovedì sera dalle 20 alle 22. Adesso mi trovate impreparato sulla via perché abbiamo cambiato sede da pochissimo, da 2 settimane. Dovrebbe essere via Cambiano, comunque zona Parco Dora. Come vi ho detto, è un bellissimo ambiente, è una bellissima esperienza e sono sicuro che vi divertireste anche voi. Zaffiro, ultimissima domanda della staffa. Allora, grazie per aver condiviso con noi la tua storia e le tue esperienze su TikTok. Però lascio un tuo messaggio finale ai fan. Prego Zaffiro. Ok, la faccio da Hill, ti ho detto che mi piace Hill. Proprio voi, che state ascoltando questa diretta in questo momento, che l'ascolterete voi perché evidentemente avete troppe cose da fare che non ascoltare il grande Zaffiro, non so, tipo giocare alla PlayStation o mangiare patatine con le vostre manine unte, beh, vi invito a vedere cosa vuol dire essere un vero wrestler. Vi invito a vedere un vero wrestler in azione. Mi invito a seguirmi sui social e dire, io non diventerò mai come lui. E sapete cosa? Avete ragione, per la prima volta nella vostra vita avete ragione, non sarete mai belli e splendenti come il sottoscritto. Però potete continuare a seguirmi e chi lo sa, sognare magari di essere come me. Grazie Zaffiro. Rapido, scusami, non ho sentito, scusami. No, rapido e indolore, ho detto. È stato perfetto. Allora ringraziamo Zaffiro, gli auguriamo una luminosissima carriera. Saluto la Presti Torino, saluto Violenzo, saluto Emilio Torres e tutti gli altri lottatori. Non posso fare l'elenco, non l'hai fatto neanche tu. L'elenco, se vuoi, ci mettiamo un pochino. A parte scherzi, auguro tutto il bene alla Presti Torino. Da Pino Fasciano e l'ora del Wrestling è tutto. Grazie ancora a tutti gli utenti che hanno assistito alla diretta e grazie a tutti gli utenti che poi recupereranno la diretta in un secondo momento. Grazie ancora a Zaffiro perché, che posso dire, ci teneva e siamo riusciti a incastrarci con gli orari. Grazie ancora a Zaffiro. Grazie a te. Da Pino Fasciano e l'ora del Wrestling è tutto. Alla prossima, grazie. Boop boop boop.